Basic Italian, 7th edition, Chapter 9. A. You are in a foul mood today and would prefer to speak to no one. Unfortunately, your family seems determined to speak to you in an effort to get you to talk. Take an extremely negative approach and cut off all conversation. Listen to the model. Cosa scrivi? Non scrivo niente. Now it's your turn. Pay close attention to the verb tense used by the speakers. 1. Cosa fai? Non faccio niente. 2. Cosa dici? Non dico niente. 3. Cosa leggi? Non leggo niente. 4. Cosa mangi? Non mangio niente. 5. Cosa desideri? Non desidero niente. 6. Cosa guardi? Non guardo niente. 7. Cosa ascolti? Non ascolto niente. 8. Che cosa hai detto? Non ho detto niente. 9. Che cosa hai comprato? Non ho comprato niente. 10. Che cosa hai fatto? Non ho fatto niente. 11. Che cosa hai preso? Non ho preso niente. 12. Quanto hai pagato? Non ho pagato niente. 13. Che cosa hai deciso? Non ho deciso niente. 14. Che cosa hai messo nella macchina? Non ho messo niente nella macchina. B. The barrage of questions continues, but your mood hasn't changed. Answer in the same manner. Listen first to the model. Chi hai visto? Non ho visto nessuno. Let's start. 1. A chi hai telefonato? Non ho telefonato a nessuno. 2. A chi scrivi? Non scrivo a nessuno. 3. A chi hai parlato? Non ho parlato a nessuno. 4. A chi hai dato istruzioni? Non ho dato istruzioni a nessuno. 5. A chi hai portato fiori e cioccolatini? Non ho portato fiori e cioccolatini a nessuno. 6. A chi hai dato le chiavi di casa? Non ho dato le chiavi di casa a nessuno. 7. Chi è stato a casa nostra? Nessuno è stato a casa nostra. 8. Chi è alla porta? Nessuno è alla porta. 9. Chi telefona? Nessuno telefona. 10. Chi vedi stasera? Non vedo nessuno stasera. 11. Con chi studi? Non studio con nessuno. 12. Con chi parli? Non parlo con nessuno. Sì. The situation hasn't changed, but the pattern of the questions has changed. Listen carefully to the model. Hai letto qualcosa? No, non ho letto niente. Let's start. 1. Hai comprato qualcosa? No, non ho comprato niente. 2. Hai mangiato qualcosa? No, non ho mangiato niente. 3. Hai perso qualcosa? No, non ho perso niente. 4. Hai incontrato qualcuno? No, non ho incontrato nessuno. 5. Hai letto qualcosa sulla storia dell'Italia? No, non ho letto niente sulla storia dell'Italia. 6. Hai parlato con qualcuno all'università? No, non ho parlato con nessuno all'università. 7. Vai al cinema con qualcuno? No, non vado al cinema con nessuno. 8. Desideri qualcosa? No, non desidero niente. 9. Fai qualcosa stasera? No, non faccio niente stasera. 10. Hai invitato qualcuno? No, non ho invitato nessuno. D. Again, respond to the next set of questions in the negative. Listen to the model. Desideri mangiare carne o pesce? Non desidero mangiare né carne né pesce. Let's start. 1. Hai preso il libro o gli appunti? Non ho preso né il libro né gli appunti. 2. Parli con Adriana o con Manuela? Non parlo né con Adriana né con Manuela. 3. Fai una passeggiata o una gita in macchina? Non faccio né una passeggiata né una gita in macchina. 4. Hai invitato Marco e Paolo? Non ho invitato né Marco né Paolo. 5. Hai comprato la carne e la verdura? Non ho comprato né la carne né la verdura. 6. Hai preso i guanti e la sciarpa? Non ho preso né i guanti né la sciarpa. 7. Hai visto Anna o Luisa? Non ho visto né Anna né Luisa. 8. Hai preso l'autobus o il tram? Non ho preso né l'autobus né il tram. 9. Hai sentito l'opera Fidelio e la Nona Sinfonia? Non ho sentito né l'opera Fidelio né la Nona Sinfonia. 10. Hai deciso di andare a Parigi e a Londra? 11. Ho deciso di non andare né a Parigi né a Londra. 12. E. Continue to answer the questions. Listen to the new model. Hai mangiato? No, non ho ancora mangiato. Let's start. 1. Hai telefonato allo zio? No, non ho ancora telefonato allo zio. 2. Hai pulito il bagno? No, non l'ho ancora pulito. 3. Hai dormito? No, non ho ancora dormito. 4. Hai studiato per l'esame? No, non ho ancora studiato per l'esame. 5. Hai fatto i compiti? No, non li ho ancora fatti. 6. Hai preparato da mangiare? No, non ho ancora preparato da mangiare. 7. Hai trovato il passaporto? No, non l'ho ancora trovato. 8. Hai comprato i biglietti? No, non li ho ancora comprati. 9. Hai salutato il nuovo professore? No, non l'ho ancora salutato. 10. Hai scritto ai nonni? No, non ho ancora scritto ai nonni. 11. Hai imparato le nuove parole? No, non le ho ancora imparate. 12. Hai chiuso la porta a chiave? No, non l'ho ancora chiusa a chiave. F. Now the questions are extending to your friends, who are also in a do-nothing mood. Listen to the model. Carlo ha fatto una domanda? No, lui non fa mai domande. 1. Mario ha fatto una fotografia? No, lui non fa mai fotografie. 2. Lucia ha scritto una cartolina? No, lei non scrive mai cartoline. 3. Giulia ha fatto colazione? No, lei non fa mai colazione. 4. Antonio è andato al cinema? No, lui non va mai al cinema. 5. Antonietta è venuta in taxi? No, lei non viene mai in taxi. 6. Aldo ha aspettato? No, lui non aspetta mai. 7. Maurizio è uscito solo? No, lui non esce mai solo. 8. Carlo è stato a casa di sua sorella? No, lui non sta mai a casa di sua sorella. 9. Nicola è andato in autobus? No, lui non va mai in autobus. 10. Bruna è ritornata tardi? No, lei non ritorna mai tardi. G. Continue to answer the questions. Follow the pattern of the model. I signori Maffei abitano ancora a Padova? No, non abitano più a Padova. Let's begin. 1. Cesare fa sempre lo stesso lavoro? No, non fa più lo stesso lavoro. 2. Daria studia ancora lo spagnolo? No, non studia più lo spagnolo. 3. Corrado frequenta sempre l'università? No, non frequenta più l'università. 4. Mirella lavora ancora all'agenzia di viaggi? No, non lavora più all'agenzia di viaggi. 5. Laura è sempre commessa alla Rinascente? No, non è più commessa alla Rinascente. 6. Ora che abita negli Stati Uniti, Pierina parla ancora italiano? No, non parla più italiano. 7. Lia è sempre simpatica come prima? No, non è più simpatica come prima. 8. Dorme ancora Vittoria? No, non dorme più. 9. Alberto è ancora stanco? No, non è più stanco. 10. È ancora con la Fiat, Guido? No, non è più con la Fiat. 11. Piove ancora? No, non piove più. 12. Tira ancora vento? No, non tira più vento. H. Answer the following set of questions by saying that their implications are not at all true. 1. Hai fame? No, non ho affatto fame. 2. Hai sonno? No, non ho affatto sonno. 3. Sei stanco? No, non sono affatto stanco. 4. È vero tutto questo? No, tutto questo non è affatto vero. 5. È una buona macchina? No, non è affatto una buona macchina. 6. Fa freddo in California? No, non fa affatto freddo in California. 7. Alberto è gentile? No, non è affatto gentile. 8. Milena è studiosa? No, non è affatto studiosa. 9. Quel formaggio inglese è buono? No, non è affatto buono. 10. Quel film è interessante? No, non è affatto interessante. I declare that you have not done the things the speaker suggests. In fact, indicate that you haven't done even one of them. Listen to the model. Avete fatto molti errori? No, non abbiamo fatto molti errori. Anzi, non abbiamo fatto nessun errore. It's your turn. 1. Avete preso molti caffè? No, non abbiamo preso molti caffè. Anzi, non abbiamo preso nessun caffè. 2. Avete capito molte parole? No, non abbiamo capito molte parole. Anzi, non abbiamo capito nessuna parola. 3. Avete conosciuto molti italiani? No, non abbiamo conosciuto molti italiani. Anzi, non abbiamo conosciuto nessun italiano. 4. Avete invitato molti studenti stranieri? No, non abbiamo invitato molti studenti stranieri. Anzi, non abbiamo invitato nessuno studente straniero. 5. Avete mangiato molte pizze? No, non abbiamo mangiato molte pizze. Anzi, non abbiamo mangiato nessuna pizza. 6. Avete fatto molte domande? No, non abbiamo fatto molte domande. Anzi, non abbiamo fatto nessuna domanda. 7. Avete visto molti musei? No, non abbiamo visto molti musei. Anzi, non abbiamo visto nessun museo. 8. Avete comprato molte cose? No, non abbiamo comprato molte cose. Anzi, non abbiamo comprato nessuna cosa. 9. Avete fatto molte gite? No, non abbiamo fatto molte gite. Anzi, non abbiamo fatto nessuna gita. Dieci. Avete fatto molte fotografie durante il viaggio? No, non abbiamo fatto molte fotografie. Anzi, non abbiamo fatto nessuna fotografia. Jay, respond to the next set of questions with an emphatic negation. Listen to the model. Non è arrivata nemmeno Laura. Nemmeno Laura è arrivata. Let's begin. 1. Non è venuto nemmeno Andrea? Nemmeno Andrea è venuto. 2. Aldo non ha mai soldi? Mai Aldo ha soldi. 3. Voi non fate mai colazione? Mai facciamo colazione. 4. Non avete visto neppure il film L'ultimo imperatore? Neppure il film L'ultimo imperatore abbiamo visto. 5. La nonna non viaggia mai in aereo? Mai viaggia in aereo la nonna. 6. Non sono venuti né Clemente né Simone? Né Clemente né Simone sono venuti. 7. Non hai neanche una lira? Neanche una lira ho. 8. Non hai capito nulla? Nulla ho capito. 9. Giovanni non sa nulla? Nulla sa. 10. Non hai ricevuto neppure una singola lettera da Mario? Neppure una singola lettera ho ricevuto da Mario. 'Kay, ask the questions that must have elicited the responses you will now hear. Listen to the model. In agosto fa molto caldo in Italia. Che tempo fa in Italia in agosto? Let's start. 1. No, il vaporetto non è ancora partito. È già partito il vaporetto? 2. La gita dura 7 ore. Quanto tempo dura la gita? 3. Sì, ci sono ancora 2 posti per sabato. Ci sono ancora posti per sabato? 4. Sì, costa lo stesso andare di sabato o di domenica. Costa lo stesso andare di sabato o di domenica? 5. Sì, la visita al Palazzo Ducale è inclusa in questa escursione. È inclusa la visita al Palazzo Ducale in questa escursione? 6. Sì, il costo del pranzo è incluso nel prezzo dell'escursione. Il costo del pranzo è incluso nel prezzo dell'escursione? Sette. Il giro turistico comincia alle 9 di mattina e finisce alle 4 del pomeriggio. A che ora comincia e a che ora finisce il giro turistico? Otto. No. Se fa cattivo tempo, il gruppo ritorna in vaporetto, non in gondola. Se fa cattivo tempo, il gruppo ritorna sempre in gondola? 9. Se piove, visitiamo una vetreria invece di fare una passeggiata sul Lido. Cosa fanno se piove? 10. No, mi dispiace. Se piove non diamo rimborsi. Se piove, danno rimborsi? L. You will now overhear a transatlantic telephone conversation between Paola and Marisa. Listen carefully. Then answer the questions in your manual. Non abbiamo mai visto un'estate come questa. Non fa altro che piovere. Ma che dici? Siamo già alla fine di luglio. Siamo in piena estate. Allora, forse non vengo in Italia quest'anno. Qui in California il clima è stupendo. Ma ieri c'è stata una vera tempesta. Ha tirato vento e ha piovuto. Per 5 minuti abbiamo avuto anche la grandine, cose dell'altro mondo. Oggi però c'è il sole e fa abbastanza caldo. Speriamo bene. Desidero rivedervi tutti, ma il viaggio costa troppo e ho poco tempo. Sono occupatissima al lavoro. Se poi piove anche, non ho assolutamente voglia di girare con l'ombrello e l'impermeabile. Se non vieni, ci dispiace. Ma anche per noi è difficile questo clima. Non siamo ancora andati a Castellina, alla casa di campagna, dove di solito passiamo l'estate, e in città d'estate non stiamo bene. Se vieni, vieni quando fa bel tempo, così andiamo tutti insieme alla casa di campagna e magari facciamo una bella gita all'isola d'Elba.